in primo piano. Buongiorno a tutti, oggi i giornali aprono quasi tutti sul G8 con accenti diversi. E molti mettono in rilievo la vicenda delle foto che sembra che ci siano stiano per essere pubblicate delle foto irriguardose nei confronti del Presidente del Consiglio. La Stampa per esempio titola "Scontro sulle foto del Premier", l'Unità titola "La perfida Albione", riferendosi al fatto che queste foto appunto dovrebbero essere pubblicate dal Times di Londra. Il giornale invece intervista il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e l'intervista è del direttore Mario Giordano. L'esordio è una domanda semplice ma significativa. Preoccupato? E Berlusconi risponde no, l'unica cosa che lo preoccupa è il torcicollo, ma conta di battere anche quello. All'interno dell'intervista viene sottolineato che questo è il terzo vertice che Silvio Berlusconi presiede, dopo quello di Napoli nel 1994 e quello di Genova nel 2001. Un record, perché il tedesco Helmut Kohl e il francese François Mitterrand ne hanno presieduti solo due. Mario Giordano gli domanda se è un record e se sarà difficile da gestire, e Silvio Berlusconi risponde che no, ogni vertice è difficile a modo suo, ma io ormai sono il più esperto fra i leader in attività e dunque affronto queste situazioni con la massima serenità, sperando di poter ottenere qualche buon risultato. E il risultato su cui punta il Presidente del Consiglio italiano è soprattutto ristabilire la fiducia. Senza fiducia non si esce dalla crisi. Da quanto tempo lo andiamo ripetendo, dice Berlusconi, ma c'è un secondo messaggio importante che deve uscire dal vertice, un messaggio che si può riassumere in uno slogan: People First. Anche il foglio del lunedì si occupa del G8. Il Foglio del lunedì, come sapete, è un'edizione settimanale che è un po' una compilation delle cose più interessanti uscite nei giornali durante la settimana. E c'è una citazione di Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes, il quale dice che i membri del G8, Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Russia, Stati Uniti, Canada e Giappone, rappresentano appena più del 50% del prodotto interno lordo mondiale, ma solo il 13% della popolazione. Dal G8 non possono quindi scaturire decisioni vincolanti per nessuno, al massimo dichiarazioni di principio e indicazioni generali. L'altro tema importante, l'altro tema del giorno, è quello delle badanti, della richiesta da parte del sottosegretario Giovanardi di una sorta di sanatoria per permettere alle badanti di rimanere nel nostro paese. E il Messaggero di Roma apre con un titolo: "Badanti e colf 500.000 fuori legge". E della questione si occupa anche la Repubblica, con un interessante fondo dell'economista Tito Boeri. Dice e scrive Tito Boeri: 4 italiani su 5 vorrebbero che gli immigrati tornassero a casa loro quando perdono il lavoro, quasi il doppio di 5 anni fa, segno di recessione. Se questa interpretazione delle paure degli italiani è legittima, pone una sfida fondamentale soprattutto alle forze politiche che si battono per ampliare le tutele di chi perde il lavoro. Spiega perché un governo che si ostina a non voler riformare gli ammortizzatori sociali non viene punito dagli elettori durante una recessione così pesante. Il fatto è che gli ammortizzatori sociali più generosi finirebbero anche agli immigrati che perdono il lavoro, rendendo il sistema alla lunga insostenibile. Quindi poi Boeri propone come si può risolvere questa questione della presenza di immigrati clandestini, che sono però indispensabili all'economia del paese e anche alle famiglie, perché appunto reggono le sorti di molte degli anziani, di molti anziani del nostro paese. E quindi dice che bisognerebbe definire quale tipo di immigrazione vogliamo incoraggiare. Il nodo che sia la Bossi-Fini che il pacchetto sicurezza si rifiutano di affrontare. Il modo più trasparente per attuare una politica selettiva dell'immigrazione consiste nell'introdurre un sistema a punti coerentemente con quanto sta avvenendo altrove in Europa. E questa proposta di inserire il sistema a punti è ripresa anche da Corrado Giustiniani sul Messaggero di Roma. Il Regno Unito lo scorso anno ha introdotto un sistema a punti per poter entrare a lavorare nel paese. Ce la fa chi ha un livello di studi e di attestati lavorativi particolarmente elevato. Noi invece siamo rimasti con le quote, l'assunzione a distanza, la regolarizzazione di fatto ex post. Questo appunto è quanto scrive Giustiniani, che aggiunge anche alcuni dati. Afferma che Franco Pittau, coordinatore del dossier statistico immigrazione della Caritas, afferma che ci sono circa 500.000 badanti irregolari nel nostro paese, e poi aggiunge che se si ipotizzano circa mezzo milione di persone da regolarizzare nel settore domestico, altrettante ve ne possono essere in tutti gli altri comparti insieme. Ma come si fa ragionevolmente ad espellere 1 milione di persone che per giunta hanno un impiego, si chiede Giustiniani? Come si fa a inseguire ciascuno con una multa da 5 a 10 mila euro? Sembra una battaglia persa in partenza, che oltretutto distoglierebbe le nostre forze dell'ordine dalla vera lotta alla malavita organizzata. E aggiunge Giustiniani che secondo uno studio del Censis ci sono 2 milioni di famiglie in Italia che fanno ricorso a badanti, lavoratori e lavoratrici, che sono circa 1.400.000. Di questi la maggior parte sono regolari, ma appunto, come si diceva, 500.000 sono invece quelli che si ritiene che siano irregolari, che quindi possano sottostare alla minaccia dell'espulsione. Ora volevo invece passare al Corriere della Sera, che apre pur esso sul G8. Il titolo è Mercati, il piano per il G8, documento italiano in 12 punti sull'economia globale, ma volevo sottolineare il fondo di Angelo Panebianco, che invece si occupa di un'altra questione che riguarda molto da vicino il nostro paese, e ovvero la mancanza di riforme. Scrive Angelo Panebianco che queste riforme servirebbero per dare un nuovo slancio all'economia italiana e metterla in condizione di sfruttare meglio le occasioni che le si presenteranno quando la crisi mondiale sarà finita. Ma quelle riforme sono rese estremamente difficili dal fatto che, se attuate, potrebbero destabilizzare la democrazia italiana e persino mettere a rischio la stessa stabilità del paese. Aggiunge Panebianco che la società italiana nel corso dei decenni sembra essersi adattata a vivere in condizioni di bassa crescita, e quindi queste condizioni di bassa crescita devono essere invece ribaltate da un piano di riforme che appunto siano attuate e permettano al paese di ripartire. Mi sembrava interessante anche sottolineare alcune inchieste che vengono pubblicate da altri giornali. La Stampa, per esempio, che come dicevo prima apre sul G8, però all'interno ha un'inchiesta che si riferisce sempre al nostro paese e al fatto che all'anzianità, al fatto che ci sono molti anziani all'interno della pubblica amministrazione. Fulvia Amabile firma un'inchiesta dal titolo «È un paese per vecchi». E scrive: quale sia stata la mano non si sa, ma nel passare dalle aule parlamentari alla stamperia della Gazzetta Ufficiale è scomparsa una norma molto cara ai ministri Brunetta e Tremonti. L'avevano chiamata libera posta. libera posti perché speravano di poter mandare a casa un po' di anziani fra i dipendenti della pubblica amministrazione, almeno in 7.000 solo nella scuola tra professori e dirigenti. E invece, misteriosamente scomparsa la norma, tutto resta come prima. Vale a dire che in alcuni uffici sembra di essere in un reparto di geriatria invece che in un normale luogo di lavoro. Vige la regola dell'età alta, più è elevata, più è diffusa e potente. In Italia il 52% dei professori ha più di 50 anni e solo 3 su 100 non hanno compiuto i 30. La media internazionale invece vede 5 volte più professori under 30 in cattedra. E lo stesso nell'università, l'età media dei professori ordinari è di 58 anni e quella dei professori associati è 52 anni, quella dei ricercatori 44 anni. In Europa i professori ordinari in media hanno 43 anni, 15 in meno dei loro colleghi italiani. E nei tribunali i magistrati anch'essi hanno in media 58 anni, mentre i giudici amministrativi sono un po' più giovani perché ne hanno 52. C'è da dire però che queste norme, che le norme di svecchiamento che erano previste da Brunetta e Tremonti, che sono scomparse dalla Gazzetta Ufficiale, non riguardavano magistrati e docenti universitari. Ma un campo dove i giovani dovrebbero essere privilegiati, come quello della ricerca, anche questo è invece appannaggio degli anziani. Scrive Fulvia Amabile, prendiamo l'Enea. I dipendenti hanno circa 52 anni se sono uomini, 48 se sono donne, vale a dire un'età media totale di 50 anni. A dirigerli nessuno che abbia meno di 60 anni. Capi oltretutto garantiti, unico esempio nell'amministrazione pubblica, da un contratto che permette loro di continuare a ricevere uno stipendio da dirigenti anche quando non lo sono più. E parliamo di cifre intorno ai 100-120 mila euro all'anno. L'Unità invece propone un'interessante inchiesta, un'analisi su un tema di politica estera, che è anche questo in questi giorni sull'Honduras, che in questi giorni sta occupando le pagine dei giornali e le cronache internazionali, perché Maurizio Chierici sottolinea che dietro questi avvenimenti c'è l'ombra di un personaggio che abbiamo già conosciuto, ovvero di John Dimitri Negroponte, ex ambasciatore degli Stati Uniti all'ONU, ma non solo, ambasciatore in Iraq dopo la guerra, dopo la recente guerra, e organizzatore della guerriglia Contras in Centro America. Ora interrompiamo perché c'è il traffico e ci risentiamo più tardi. In primo piano. Buongiorno, sono sempre Alessandro Marzomagno e proseguiamo con la rassegna stampa di Radio 24. Il lunedì è un giorno in cui i quotidiani escono o con degli inserti oppure con un'edizione settimanale, come è il caso del Sole 24 Ore, che nell'edizione del lunedì riporta delle inchieste, degli approfondimenti su importanti temi. Questa settimana si parla dell'economia illegale, dell'economia derivata dall'abusivismo, dalla criminalità e dall'evasione fiscale. E è un settore che fattura 400 miliardi di euro. E scrive Carlo Trigilia: se si somma il valore stimato dell'economia irregolare a quello dell'economia più specificatamente criminale, si arriva a oltre 400 miliardi di euro annui, circa un quarto del PIL. La maggior parte è frutto dell'economia in nero, che lo scorso anno ha incassato circa 250 miliardi, producendo un mancato gettito fiscale di almeno 100 miliardi. I restanti 170 miliardi sono il bottino dei reati. Il più remunerativo nel 2008 è stato il traffico di droga, che ha movimentato complessivamente 59 miliardi. E quindi un settore purtroppo di primaria importanza nell'economia italiana. Conclude Trigilia, occorre mantenere un quadro di riferimento integrato ed una prospettiva di più lungo termine, occupandosi seriamente di una questione oggi rimossa, come quella del Mezzogiorno, perché purtroppo è proprio nel Mezzogiorno che si concentrano alcuni fattori come l'economia criminale, la criminalità organizzata, la mancanza di lavoro che poi rende più accentuato il fenomeno del lavoro nero e dell'evasione fiscale. Come dicevo, invece, appunto, gli inserti settimanali dei quotidiani, sono inserti economici, il Corriere Economia del Corriere della Sera e Affari e Finanza della Repubblica. Questa settimana si occupano di banche. In particolar modo sul Corriere Economia Dario Di Vico si occupa della mancanza, della difficoltà delle piccole aziende di ottenere credito e propone un patto tra banche e piccole imprese per superare questo gap. Scrive Di Vico, nel frattempo le piccole e medie imprese lanciavano e continuano a lanciare drammatici SOS sulla loro sopravvivenza, indicando spesso nelle banche il principale imputato della loro condizione di sospensione. Ora, secondo un campione di aziende patavine, il 60% degli imprenditori conferma coraggiosamente la sua intenzione di investire nel corso del 2009, ma la metà delle imprese dichiara nel contempo gravi problemi di sostenibilità finanziaria. Oltre il 32% delle aziende, scrive Dario Di Vico, che si sono rivolte alle banche negli ultimi 6 mesi, ha dovuto far fronte a limitazioni nell'ammontare del credito erogabile, all'incremento degli spread, alla richiesta di maggiori garanzie reali. Ecco dunque la ratio del patto, un riavvicinamento che eviti ulteriori conflitti e crei un sentiero comune di lavoro per far fronte a quello che si annuncia come il settembre nero dell'economia italiana. Tema questo del settembre nero che viene ripreso anche da Marco Panara su Affari e Finanze di Repubblica. Scrive Marco Panara, il momento della verità sarà però a settembre quando cominceranno a contare le serrande che si alzeranno e quelle che resteranno chiuse. E scrive Panara, le imprese di questi tempi non chiedono denaro per investire, ma per sopravvivere, per reggere ai ritardi sempre maggiori dei pagamenti e all'inanidirsi del cash flow. I progetti sono pochi e peraltro guardati con sospetto dai banchieri che per decidere vorrebbero più visibilità sul futuro. Il grosso sono ristrutturazioni di debiti, allungamenti di scadenze e richieste di liquidità per reggere e per non morire, quindi richiesta appunto di sopravvivenza e difficoltà invece di investire e di guardare avanti. Una cosa che mi sembra interessante che pubblica il Corriere della Sera è un intervento del sindaco di Milano, Letizia Moratti, che è una sorta di manifesto per la città. Il titolo è Alla scala per scrivere il futuro della città e scrive il sindaco Moratti, la scuola e l'università, il lavoro e l'economia, la cultura, l'arte, il volontariato come i servizi ai cittadini, l'amministrazione della giustizia e la sono dimensioni che devono poter contare su percorsi di crescita che coniughino il valore personale con il bene collettivo. Per cogliere questi obiettivi occorre trovare nuove forme di alleanza, occorre battere nuove strade anche in una prospettiva internazionale per collaborare tra la dimensione pubblica e quella privata non più rimandabile, ma anche tra centro e territorio, tra singole organizzazioni, tra locale e globale. A questa urgenza Milano non si sottrae e quindi appunto il sindaco di Milano propone una specie di patto di sistema tra le categorie affinché si proceda con il progresso della città. Volevo un momento tornare però ai temi della politica estera, volevo tornare a John Negroponte di cui stavamo parlando prima dell'interruzione del traffico, perché è un personaggio molto conosciuto ma di cui però emergono aspetti inquietanti e quindi volevo riprendere il pezzo di Maurizio Chierici, che è un espertissimo giornalista di politica estera che ha scritto per l'Unità, tracciando il profilo di questo personaggio che tanto ha influito sulla politica estera americana. Toscana. E scrive Chierici, quasi 70 anni Negroponte cresce all'ombra di Nixon, Reagan e Bush padre. Ha avuto un ruolo importante nel Vietnam, tanto che ha ispirato la figura dell'americano tranquillo, del protagonista del romanzo di Graham Greene. Tra l'altro Negroponte parla perfettamente il vietnamita. Nel 79 era era ambasciatore in Honduras quando in Nicaragua i sandinisti rovesciano il dittatore Somoza. Attenzione, quindi era ambasciatore in Honduras, dove una piccola ambasciata americana viene trasformata nella più importante rappresentanza diplomatica degli Stati Uniti in tutte le Americhe, 6.000 funzionari e quindi una centrale importantissima per la CIA e per la politica estera americana. Lì organizza i Contras, come avevo accennato prima, e dopodiché da quella base prepara l'invasione di Panama, prepara l'invasione a Panama che fa saltare Noriega. Dopodiché diventa ambasciatore a Baghdad e quindi l'ipotesi che fa l'Unità è che molto probabilmente, avendo avuto un ruolo così importante nel passato nell'Honduras, dietro a questo golpe è possibile che ci sia la sua opera. E infine volevo sottolineare che il Corriere della Sera pubblica un'intervista al segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon sulla Birmania, un paese che da molti anni vive una situazione grave, una situazione di dittatura militare molto feroce, e come tutti voi sapete la leader dell'opposizione che aveva vinto regolarmente le elezioni Aung San Suu Kyi è detenuta agli arresti domiciliari, anzi ultimamente è anche stata messa in prigione. Allora, in questa intervista, firmata da Mara Gergolet domanda a Ban Ki-moon: lei è appena stato in Birmania, ha trovato qualche cambiamento nella giunta? Credo che abbiano ricevuto il messaggio. Se vogliono dimostrare un profondo impegno per la democratizzazione del paese, devono indire elezioni libere, trasparenti, inclusive di tutti e legittime nel 2010. Bene, con questo vi saluto e ci risentiamo domani mattina.